In pratica, Gio, c'era oggi, questo devo raccontartela, eravamo quando voi stavate giocando con le due ragazze di Jessica e Giorgia, eravamo io e Campa all'ombrellone e si avvicina una, ti giuro, una figa della Madonna pazzesca, a un certo punto ci viene a chiedere, avete da accendere? Yeah!